Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Pronti per partire? Bene, attenti, attenti a quello che lasciate sentire per credere. Passeggeri smemorati. Due terzi dimenticano cose in aereo. Secondo un sondaggio di Skyscanner, portale leader nella ricerca dei voli, alla maggioranza dei passeggeri è capitato di lasciare qualcosa a bordo dopo un viaggio in aereo. Dalle risposte di oltre 700 persone è emerso che un terzo ha dimenticato in aereo beni per un valore complessivo di oltre 100 euro. Tra questi ci sono fotocamere, 3%, tablet, 3%, e videogiochi, 2%. 5 persone sono addirittura scese dall'aereo senza la fede nuziale, probabilmente con qualche solida spiegazione da dover riportare a casa. Uno sfortunato 5% ha dichiarato di aver lasciato a bordo passaporti o documenti di viaggio, mentre un 2% ha malauguratamente dimenticato in aereo il giocattolo preferito del figlio, cosa che probabilmente ha causato un piccolo dramma, con tanto di scatti di rabbia e lacrime a fiumi. Tra le perdite più insolite ci sono persino un paio di dentiere e un trombone. La cosa più comune dimenticata tra i sedili è il libro, lasciato a bordo dal 18% dei passeggeri, seguito dai telefoni cellulari, 9%, riviste o giornali, 8%, e un capo d'abbigliamento, sempre 8%. Mentre alcuni vestiti sono relativamente più facili da dimenticare rispetto ad altri, è singolare il fatto che una persona abbia ammesso di essere sbarcata senza biancheria intima. Volare. Oh, oh. E la memoria non facileca solo in aereo, sbaglio. Vi aiuto a ricordare. Pensate all'ultima volta che vi siete dimenticati di... Compilate voi. Lo avete cercato ad esempio nell'ultimo posto in cui siete state, o avete chiamato l'amico chiedendogli: ti ricordi se avevo con me? Raccontatemi, chiamatemi 800 24 00 24, semmai chiamiamo insieme l'ufficio oggetti smarriti. Qui in studio con me il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno professore. Buongiorno a lei Nicoletta e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Pronto per farci lavorare sulla nostra memoria? Prontissimo per farci lavorare sulla memoria. Quando parliamo di memoria, ricordiamoci che è quella funzione che si è sviluppata nel corso dell'evoluzione per aiutarci a sopravvivere. Quindi non per farci ricordare migliaia di cose che magari non sono proprio utili alla nostra esistenza. Quando facciamo riferimento alla memoria, facciamo anche riferimento ai tre meccanismi che la fanno funzionare. Il primo meccanismo è quello della registrazione. Noi dobbiamo essere attenti e interessati all'informazione per poterla mandare nel magazzino della memoria. Dopodiché interviene il secondo meccanismo, che è quello che ci consente di ritenere l'informazione e di non farla scappare via. Dopo che noi abbiamo mandato nel magazzino a medio-lungo termine l'informazione, dobbiamo anche avere la possibilità di recuperarla. E quindi lì il recupero è il terzo meccanismo. Registrazione, ritenzione, recupero. Allora, esatto. E iniziano tutte e tre con la R, quindi si può ricordare facilmente perché sono le tre R. Possiamo cercare di dividere un po' i nostri ascoltatori tra persone che ricordano bene o smemorati? Possiamo aiutarli con un suggerimento che mi ha dato proprio lei sul semaforo. Ecco, utilizziamo i colori del semaforo per dire se in questo periodo noi siamo stanchi o siamo arrivati proprio al momento in cui dobbiamo andare in vacanza. Facciamo in questo modo: se negli ultimi giorni non abbiamo dimenticato nulla di importante, non ci è capitato nulla che possa darci qualche segnale di allarme, allora ci attribuiamo alla memoria il colore verde. Perfetto. Se negli ultimi giorni invece è capitato che abbiamo dimenticato qualcosa, magari non abbiamo trovato il telefonino piuttosto che le chiavi, oppure abbiamo dimenticato un impegno non importantissimo, allora diamo l'arancione. Ma se negli ultimi giorni ci è capitato di dimenticare qualcosa di importante, beh, allora è il caso proprio di assegnare il colore rosso. Allora, verde, arancione, rosso. Date un colore alla vostra capacità di ricordare, ma professor Iannoccari, possiamo aggiungere che cosa facciamo più fatica a ricordare in questo periodo, che è un periodo rosso, caldo, perché siamo molto stanchi, affaticati, abbiamo voglia di staccare la spina. Ad esempio, ci saranno persone che dimenticano più facilmente gli appuntamenti, le scadenze, gli oggetti, la lista della spesa. Professore, ci aiuti lei? I numeri. Sì, è il periodo in cui veramente si dimentica di tutto, anche sugli aerei, come si diceva prima. Anche le mutande. Non è un caso, sì, stranamente anche questo. Ma possiamo fare anche qualche esercizio, ecco, per aiutare i nostri ascoltatori a... ad allenare la funzione della memoria. A fare una sorta di stretching. A fare una sorta di stretching, esatto, per riscaldare la mente. Proporrei di utilizzare i tre colori che abbiamo visto prima per il semaforo, associando a ciascun colore tre parole che adesso dirò. Sì. Gli ascoltatori dovranno memorizzare le parole associate a ciascun colore, perché dopo lei... durante la trasmissione citerà uno dei tre colori che loro adesso non sanno quale sarà. Sì. E dovranno contattare subito la redazione per dire esattamente quali sono nel modo più veloce possibile. Proviamoci. Benissimo. Allora, colore verde, quale parola associamo? Non vale barare e scriverle, perché sennò non serve a nulla. Ottima indicazione, direi che non vale proprio la pena di scriverle, ma usiamo il nostro taccuino che abbiamo in testa, quindi la nostra memoria. A verde associamo prato. 18 aprile, ripeto, prato, 18 aprile. Arancione. Arancia, 50, sole, ripeto, arancia, 50, sole. Rosso. Ciliegia, 25, tramonto, ripeto, ciliegia, 25, tramonto. State pronti, 800 24 00 24 e non scrivete, ma memorizzate. Cose negli scatoloni e tu fatichi a entrare dalla porta. Lo so, l'hai visto? Ogni volta, ogni singola volta. Dobbiamo spostare questa roba, svuotiamo lo stanzino e mettiamola di là. Sta attento! Non urlare, non serve, non sono sordo. Sta bene a sentire. Ora porti tutto di là. Ho steso degli asciugamani puliti sul pavimento e ci posi le mie scarpe e le mie scatole con delicatezza. Adesso non ci resta che buttare un po' di vestiti. Allora vuoi proprio morire. Ma la maggior parte non l'hai mai indossata. È così. Non li ho ancora indossati, è vero, ma un giorno lo farò. Facciamo spazio, un po' come dobbiamo fare nei nostri armadio. Per ricordare bisogna... un po' eliminare le cose nell'armadio, ma le informazioni per quanto riguarda la nostra mente che non servono, per lasciare spazio a quelle che ci servono. In linea con noi abbiamo il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo, esperto del nostro Daily Lab. Buongiorno dottor Aquilar. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Certo, per ricordare dobbiamo fare spazio e la nostra memoria è un po' come quella del computer, cioè per aggiungere nuove cose dobbiamo metterne via altre che non ci servono più, e quello che noi possiamo fare è esercitarci nel discriminare tra le cose di cui dobbiamo ricordarci e quelle invece che faremo meglio a dimenticare, ma che purtroppo ci tornano sempre in mente. Gli antichi romani dicevano che la memoria diminuisce se non la si esercita. Da un lato dobbiamo esercitarla, ma dall'altro possiamo essere compassionevoli verso noi stessi se alcune cose ce le dimentichiamo. Potremmo e vorremmo magari dimenticarci le persone antipatiche, quello non può succedere e dobbiamo stare anche attenti a non volerci per forza dimenticare di qualcosa, perché più vorrei dimenticarmi di una cosa, più quella torna davanti alla mia attenzione. Quindi, dottor Aquilar, dimentichiamo le cose inutili? Ma annotiamo le cose belle, scriviamole, prendiamo un taccuino e impariamo l'arte delle liste, perché lo scrivere una cosa sotto l'altra ha i suoi vantaggi. Se ci pensate, già solo il fatto di scrivere, di prendere nota su un foglio, ci permette in qualche modo di fare ordine, di fare spazio. Ma la lista, cari amici, può anche aiutarci a vivere meglio e a conoscerci di più. Io questo non lo avevo mai pensato, ma leggendo un libro molto interessante che vi consiglio, si intitola L'arte di fare le liste, è scritto da Dominique Loreau, Vallardi Editore, ho proprio capito questo. Insomma, fare le liste può essere un modo per vivere meglio, per conoscerci meglio. Sentite. L'elenco costituisce una via d'accesso diretta all'esplorazione illimitata della nostra vita. Forma di linguaggio e di conoscenza ci permette di affrontare i fatti con una chiarezza così prodigiosa da renderceli evidenti e da indurci ad arricchirci e a vivere la nostra vita con maggiore consapevolezza. compilare elenchi di ricordi, di sogni, gusti personali, andare alla ricerca dei tesori nascosti nel proprio intimo, della propria forza creativa, delle illusioni perdute, far riemergere gli innumerevoli frammenti del proprio io, fino a quel momento dispersi o ignorati, affinare i sensi, riorganizzarsi, riflettere, evolversi, apprezzare il silenzio e la solitudine, semplificarsi la vita, ma anche valorizzarla. Ecco cosa ci permettono di fare le liste. Esiste mezzo più piacevole, efficace e gratificante per fare ciò che si vuole per sé, da sé e in sé? Per mancanza di tempo spesso dimentichiamo chi siamo. La lista, grazie alla sua forma sintetica, si adatta perfettamente alla nostra epoca, non solo perché ci rende più consapevoli, ma anche per il rinnovamento spirituale che suscita in noi. E naturalmente le liste ci permettono di alleggerire e chiarire i nostri stati d'animo. Dottor Aquilar, che ne pensa? Sono d'accordo, anche se non lo farei così enfatica. Mentre andava il testo, mi veniva in mente il fatto che spesso nelle ricerche di psicologia della pubblicità si fa una lista della spesa finta per chiedere poi ai soggetti sperimentali di interpretare com'è la personalità di quell'individuo che compra quelle cose. Quindi da un lato la lista sicuramente ci può aiutare, e tutte le forme di auto-osservazione guidata che usiamo anche nella psicoterapia cognitivo-comportamentale assomigliano a delle liste, ma eviterei che questo si trasformi in un comportamento compulsivo dello scrivere, perché se enfatizziamo troppo questo aspetto siamo esageratamente attenti all'analisi e perdiamo la sintesi, perché poi dobbiamo avere anche un colpo d'occhio finale. Per cui certamente anche adesso in tempo di vacanza, prima di partire per le vacanze, faremo la lista di quello che non dobbiamo dimenticarci, sapendo che ce ne dimenticheremo. E possiamo utilizzare anche a volte uno scritto per favorire anche i pro e i contro delle scelte, per dare un peso a ciascun elemento che mettiamo nella lista, ma contemporaneamente non dobbiamo perdere di vista il quadro d'insieme, l'idea anche impressionistica di quello che staremo per fare, perché questo ci aiuterà a partire per le vacanze con una memoria più allenata a distinguere tra cose buone e cose cattive, e con un'immagine globale dell'emozione che ci guiderà poi nelle scelte che faremo nel tempo estivo. Dottor Aquilar, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci che cosa hanno perso, no? Magari durante il viaggio. Siamo partiti da un sondaggio che ha svolto Skyscanner. Lei che cosa ha dimenticato? Le è capitato? Dimentico tutto, e sono molto lieto di dimenticare tutto. L'importante è che prima di partire so che tutto quello che ho dimenticato potrò procurarmelo altrove, perché dobbiamo stare sempre con la mente fresca a poterci godere la situazione. Se qualcosa dimenticheremo, la compreremo in loco, e se sono proprio i documenti dovremo tornare indietro per forza all'aeroporto, ma a parte questo possiamo dimenticare tutto. Grazie dottor Aquilar, non si dimentichi di noi, l'aspettiamo sul Daily Lab. Quello mai. Grazie. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Cinzia ci chiama da Catania, 800 24 00 24. Questo è un numero verde facilissimo che voi sapete, immagino, memoria. Ma Cinzia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Cinzia. Io raccontavo che tanti, un po' di anni fa, abbiamo fatto una vacanza a Euro Disney con mia figlia che passava dalla quinta elementare alle scuole medie, quindi una vacanza premio del nonno di 10 giorni a Euro Disney. Inebriate dai giochi, dal relax, dalle spa e da tutto il bello di Euro Disney, a Parigi, al ritorno della vacanza, sull'autobus che ci portava verso l'aeroporto, siamo direttamente scese proprio inebetite da questa relax e abbiamo dimenticato la valigetta con documenti, denaro, tutto quanto. È vero che ci come se non volessimo andare via. Forse c'è una lettura, sì, vero, di psico di questa dimenticanza, professor Iannoccari. Beh, dimenticare i soldi, accidenti. Quello è grave. Probabilmente era un po' il desiderio di continuare la vacanza, ecco, perché il documento di imbarco, i documenti indicano il momento in cui si ritorna alla vita normale, per cui potremmo anche considerarlo un atto mancato. Fate delle liste e soprattutto quando dovete partire controllate con cura, almeno che ci siano i documenti e i soldi. Carlo, dalla provincia di... Non lo so. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Da Bari. Che cosa mi... di Bari. Ecco, avevo letto un bat e non capivo. Ci racconti. Allora, prima di tutto buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione, veramente utile tutto il servizio che fate. Niente, io volevo dire la mia esperienza, in pratica la mia memoria al mio giudizio, io ce l'ho proprio sotto i piedi, cioè non ricordo quasi nulla. Un esempio, conosciuto una persona presentata di qua e di là, dopo 5 minuti io non ricordo manco più il nome di questa persona, cioè per farvi capire la mia memoria. Carlo, perché lei non presta attenzione, forse il professor Iannoccari ha un trucchetto almeno per ricordare i nomi e poi per mettere a posto questa situazione, perché Carlo dice non ricordo nulla, in realtà non è possibile, qualcosa si ricorda, ma evidentemente la sua memoria non gli è utile. Non la sente efficiente, pronta e fedele. Probabilmente, ecco, la mia domanda è quale memoria, ma Carlo l'ha già specificato, perché di memorie noi ne abbiamo più di una dozzina, per cui dobbiamo capire quale memoria in quel momento non sta funzionando. La fortuna è che la natura ci ha dotato di memorie divise in comparti stagni, per cui se una memoria difetta, arriva l'altra. Ci sono le altre che funzionano. 12 ne abbiamo. Più di 12. Le contiamo sono più di 12. Nel caso di Carlo, io gli suggerisco, se lo ritiene opportuno, di ripetere il nome della persona che conosce già subito. Quindi incontra Nicoletta. Ah, buongiorno Nicoletta, lieto di averti conosciuta. Nicoletta, come mai sei da queste parti? Bene Nicoletta, allora pensi che ci vedremo ancora? In questo modo che cosa fa Carlo? Ripete il nome, quindi lo fa suo, ripetendolo 3 volte. Intanto instaura un buon rapporto con l'interlocutore, perché a noi fa piacere sentire il nostro nome citato, e in più lo memorizza, per cui fa anche la sua bella ginnastica mentale. Probabilmente quando ritroverà Nicoletta si ricorderà di lei e del suo nome, la chiamerà per nome. E mi può chiamare all'800 24 00 24, sempre dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno, come ha fatto Gianluigi dalla provincia di Bergamo. Voilà, buongiorno Gianluigi. Buongiorno. Ascolti, niente, la chiamavo perché 2 giorni fa mia moglie mi ha chiesto se mi sentivo a posto, perché dice che più del solito dimentico cose, le sembro particolarmente distratto. L'aneddoto è che ho dimenticato la cantina aperta con la luce accesa e ho fatto spaventare un po' sia lei che i vicini, che hanno pensato a dei ladri. Però io non so, io non lo vedo come problema, perché fondamentalmente sono sempre stato così, e mi sembra di ricordare solo le cose che per me sono importanti. Che è quella... Un'altra cosa strana, per esempio, che non ho la prontezza della risposta. A volte mi chiedono, quando mi chiedono l'età, io riesco a sbagliare anche sulla mia età. Gianluigi, quanti ne ha? Questo di solito capita alle signore un pochino più age, che devono cercare almeno di ricordarsi l'età che hanno detto l'ultima volta, no? Gianluigi, quanti anni ha? Purtroppo io vivo in una sorta di bolla di smemoratezza felice. Non so, felice, però, felice. Vede? Sì, non c'è problema. Sono gli altri che vedono un problema, io non lo vedo, quindi... Però non vorrei che fosse una roba, sa, come il malato che non riconosce la malattia. No, Gianluigi, stia sereno, professor Iannoccari. Beh. Sono gli altri tante volte che ci dicono, insomma, non ti ricordi nulla. Mentre, come nel caso di Gianluigi, noi siamo assolutamente sereni e tranquilli. Sì, vorrei rasserenare Gianluigi ricordandogli che Einstein una volta andò ad una conferenza in giacca, cravatta, anzi allora si usava il farfallino, va bene, e aveva i boxer, aveva dimenticato di mettere i pantaloni. Però stiamo parlando di Einstein, sì, e quindi sì, questo vuol di dire una che... persona che è assorta dai propri pensieri, per cui è facile alle distrazioni. Quello che succede a Gianluigi è una distrazione, il fatto di lasciare la cantina aperta è la nostra regia, no? Che guarda quello che facciamo e ci dirige, che in quel momento si distrae, per cui non tanto memoria quanto i processi di attenzione. Non trovo più la mia fede nunziale, mi aiutate, ci scrive Sandro da Verona. L'anno scorso, ci scrive Alfredo Vicenza, un signore dimenticò la moglie all'autogrill, ma come è possibile? Beh, anche lei poteva non farsi dimenticare, no? 800 24 00 24 rosso. un colore che racconta tante cose, anche perché il professor Iannoccari ha legato i nomi secondo un ragionamento. Non sono quindi dei nomi buttati lì a caso, voi dovete ripeterceli chiamando l'800240024, ma raccontando anche il ragionamento che vi ha permesso di ricordarli. Molti di voi me li hanno già scritti via SMS al 349-238-6666 e tutti voi avete scritto: non ho baratto, lo giuro. Ma tu sei Nicola? La ragazza di Stromboli. La ragazza di Stromboli ha un nome. Ah sì, certo. Aspetta, non me lo dire. Marcella. No, Mirella. Ma sì, sì, Mirella, certo, scusa, scusami. La nostra memoria ogni tanto fa cilecca, noi cerchiamo di allenarla divertendoci un po'. Il professor Iannoccari, che qua in studio con me, ci ha suggerito un giochino. Siamo partiti dal tre colori del semaforo e abbiamo abbinato a ciascun colore due parole e un numero. Ho dato la parola rosso, molti di voi stanno già chiamando all'800240024, ci racconteranno le due parole e il numero a cui è stato abbinato questo colore, ma spiegandoci anche perché, attraverso quale strategia sono riusciti a memorizzarlo. Nel corso della trasmissione daremo anche gli altri colori, cioè l'arancione e il verde, quindi preparatevi. 800240024. Professor Iannoccari, ricordiamo, siamo stanchi in questo periodo, qualcosa ci dimentichiamo ed è bene così, ne abbiamo parlato anche con il dottor Aquilar, perché dobbiamo fare spazio. E le dimenticanze, e ne parlo con lei che è un po' il guru della memoria, le dimenticanze aiutano. Le dimenticanze aiutano a ricordare e a vivere meglio. Sì. È un po' come quando si potano le piante, no? Questo serve per rinforzare poi la pianta stessa, per cui dobbiamo sfrangiare tutte le informazioni che abbiamo e che a un certo punto non risultano più utili. Pensi che a me è capitato di recente di andare a fare la spesa al market sotto casa, ho preso gli ingredienti per la cena e mia moglie mi aveva raccomandato di prendere anche un detersivo che le serviva per fare un lavoro dopo cena. Beh, ho dimenticato proprio quello, però sa che cosa è successo? Che dopo cena siamo andati a fare una bella passeggiata, per cui le dimenticanze molte volte aiutano. Pier Giovanni ci chiama da Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Mi racconti? Io volevo soltanto portarle degli episodi che a volte succedono, che diventano anche curiosi e simpatici. A volte io chiamo una persona per lavoro, però nella fase iniziale della telefonata ci salutiamo, parliamo di altre cose, e mentre arrivo a dover dare il vero motivo della telefonata, per cui mi scappa di mente. Come allora, la capisco? Mi fermo a dirgli: scusa, mi è scappato il motivo per cui ti ho telefonato. Arriva questo piccolo blackout che a volte si scioglie in un minuto e a volte invece devo richiamare magari dopo 10 minuti, perché mi viene in mente dopo. Sì, ti ho chiamato per dirti che non me lo ricordo più, ci sentiamo dopo. Professor Iannoccari. In quel momento è la memoria di lavoro che funziona male. Noi utilizziamo di solito diverse memorie, andiamo a recuperare dai magazzini ciò che ci serve in quel momento. Quando l'informazione che abbiamo depositato va nella memoria di lavoro, questa, siccome è labile, dura pochissimo, ci sfugge facilmente. È bene agganciare, ancorare l'informazione che dobbiamo comunicare ad un qualcosa che fa riferimento al soggetto. Per cui io, vedendo Nicoletta, ricordo di telefonare all'800240024. Ecco, per cui agganciare sempre l'informazione ad un qualcosa che fa riferimento al nostro interlocutore. Questo ci aiuta. Questo ci aiuta per la memoria di lavoro o anche in genere per la memoria? Per le altre 11 oltre tipi di memoria che abbiamo, per quelle ci servono anche per le altre memorie, perché le tecniche che noi utilizziamo, come per esempio l'associazione o il dividere in categorie o creare delle immagini o raccontare delle storie con gli elementi che vogliamo memorizzare, ci aiutano a depositare le informazioni nei magazzini a medio-lungo termine. Ma è vero anche che se la nostra memoria ogni tanto facilecca, il nostro organismo invece non dimentica. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Filippo Ongaro. Buongiorno, dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Vede che mi sono allargato, ho detto nostro. Nostro. Mi sento vostro. Bene, quindi. Bene. Allora, dottor Ongaro, è vero che il nostro organismo, insomma, si segna un po' tutto? Assolutamente, credo che sia intanto da sottolineare che ovviamente la memoria fa parte del nostro organismo, no? Quindi i processi che governano la memoria poi alla fine affondano le loro radici nella nostra biochimica, nella funzionalità delle nostre cellule. E devo dire che ci sono tante somiglianze tra questo discorso e un tema invece che riguarda più strettamente, diciamo, la nutrizione, il metabolismo, che è l'accumulo di tossine, cioè come, diciamo, la nostra memoria può subire l'accumulo di stress, l'eccesso di informazione e incepparsi, allo stesso modo anche il nostro metabolismo, quando è un po' avvelenato da tutte le tossine che derivano in gran parte dal nostro stile di vita, non sempre adatto, ecco che comincia a fare fatica, la pulizia dell'organismo funziona peggio, e ricordiamo che in questo è coinvolto un organo di grandissima importanza che è il fegato, e che non necessita solo di rinunce, ma necessita in realtà di cibi giusti, cioè il fegato per funzionare nel modo corretto e garantire una pulizia costante, una detossificazione, si chiama in gergo tecnico, dalle tossine che vengono dal mondo esterno, ma anche da quelle che produciamo noi, ha bisogno di una grande mole di sostanze, di vitamine, di antiossidanti, di aminoacidi, cioè di molecole che lo aiutano a funzionare bene. Quindi torniamo al discorso che ci sta tanto a cuore, che gli alimenti giusti fanno una grande differenza. Dottor Ongaro, a proposito di alimenti, a proposito quindi di cervello e di memoria, c'è una ricerca pubblicata su Salute 24, il nostro portale cugino, amico, che vorrei proprio commentare con lei. Sentiamola. Fatichi a ricordare impegni, nomi, appuntamenti con l'avanzare dell'età? Un soccorso potrebbe arrivare dai frutti di bosco, fragole e mirtilli in testa. Tocca sana per la memoria delle donne. Secondo uno studio pubblicato su Annals of Neurology, infatti, i frutti rossi hanno il potere di rallentare l'invecchiamento della materia grigia correlata all'età. Le donne che ne consumano di più mettono un freno al decadimento cognitivo pari a 1,52 anni rispetto alla media. Questo secondo quanto rilevato dai ricercatori del Brigham and Women Hospital e della Harvard Medical School di Boston. È la prima volta che una ricerca fa emergere in modo chiaro i dati di una relazione tra frutti di bosco e rallentamento cognitivo. Ma i ricercatori hanno anche sottolineato il fatto che non soltanto le proprietà vegetali potrebbero essere la causa diretta di questo miglioramento cerebrale. Le donne che mostrano un più alto consumo di frutti rossi, infatti, sono anche quelle che conducono una vita più attiva e che hanno abitudini alimentari più sane. Tanto che, secondo Elizabeth DeVore e colleghi, registrare il consumo in fragole e mirtilli delle persone anziane potrebbe essere un buon test diffuso per verificare l'effettiva conservazione di performance cognitive migliori. Dottor Ongaro, la stagione delle fragole è finita. Possiamo ripiegare sui frutti di bosco, che però costano parecchio, anche se questa è la loro stagione. Che altro possiamo mangiare o evitare di mangiare? E diamo un consiglio anche per l'altra metà del cielo, che nella ricerca non è stata citata. Beh, credo che la ricerca, Nicoletta, è molto interessante, però come spesso accade per le ricerche diventa anche un po' settoriale. Diciamo in generale che ci sono sempre più studi che dimostrano come vari nutrienti, ma ancora di più come una nutrizione corretta, ricca di alimenti del mondo vegetale, di frutta fresca e soprattutto un'alimentazione che segue la stagionalità, sia in grado di prevenire da molte malattie. Qui si citava il decadimento cognitivo, ma dati analoghi poi li troviamo anche per altre patologie come quelle cardiovascolari o quelle metaboliche come il diabete. Quindi direi che, come spesso abbiamo detto, non è un alimento, quindi non è il frutto di bosco di per sé, ma è un'alimentazione, uno stile alimentare completo, seguendo la stagionalità, riducendo al massimo tutte quelle artificialità che l'alimentazione moderna spesso invece ci fornisce. Dottor Ongaro, approfitto dell'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori, me lo stanno chiedendo via SMS, un consiglio per affrontare l'estate in forma. Quindi ricordiamo un pochino la regola del suo piatto nella distribuzione della quantità. Come no, io Ho ripreso, guarda caso, la stessa università che avete citato nello studio, cioè l'Università di Harvard, che ha recentemente proposto un modello di piatto unico suddiviso in questo modo: metà piatto da dedicare alla verdura di stagione, quella che preferite, cruda o cotta, non ha molta importanza, l'altra metà da dividere in due, una parte lasciarla per i cereali integrali, quindi la pasta, il riso e altri cereali che vi piacciono nella loro forma naturale, integrale, ricca di fibra, e l'ultima parte da dedicare alle proteine, ruotandole tra il pesce pescato, possibilmente i legumi e le carni magre. È un metodo molto semplice e immediato per saper gestire nella maniera più corretta le proporzioni tra i vari macronutrienti. Molto facile da ricordare e molto salutare, dottor Ongaro. In questi giorni vado di rime, così. Non so se questo è pericoloso, ma insomma, dottor Ongaro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie. Avevamo detto rosso 800 24 00 24. Adesso è tempo del professor Iannoccari. Dica lei un colore. Tempo del verde. 800 24 00 24. Chiamateci, raccontateci che cosa vi ricordate, quali sono le due parole e il numero abbinato a questi due colori, il rosso e il verde. E intanto andiamo da Luca, che ci chiama da Milano, e poi io anche Ciro da Napoli. Buongiorno, buongiorno a tutte e due. Luca, buongiorno. Buongiorno, avevo una domanda per il professore. Eccolo. Come mai tutte le volte che affronto una discussione importante con qualcuno, con il capo in ufficio, piuttosto che con un cliente e quant'altro, magari mi preparo molto bene a questa discussione, la faccio, la porto a termine in maniera egregia, ma se dopo qualcuno mi chiede com'è andata, io le parti più importanti non le ricordo più. Perché in questo caso credo che la tensione giochi un ruolo principale nella discussione, nel senso che lei è molto abile nel pianificare gli argomenti da trattare, ma c'è una parte poi emotiva che in qualche modo interferisce col suo piano. Anzi, devo dire che è già bravo a riuscire a mantenere la discussione sul piano che lei si era prefissato. Il fatto che non ricordi dopo i punti principali è perché l'accumulo della tensione che lei ha accumulato va ad interferire con la memorizzazione del materiale che ha affrontato. Consiglio. Respirare, fare dei respiri profondi prima di iniziare la conversazione, cercare sempre di non far emergere la tensione, per cui rimanere sempre un passo indietro rispetto, in modo che a chiusura di conversazione, di incontro, lei ha ancora delle energie per sottolineare i punti salienti del vostro incontro. Sì. È così? Sì. Dobbiamo sempre risparmiare un po'. Ricordi che noi una notte non riuscivamo a dormire Noi trovammo il film, il posto delle fragole sul via Cava, restammo tutta la notte a guardarlo, lo ricordi? Fu una cosa fantastica. Sì. Quello fu uno dei grandi momenti. Oh, quando stavamo andando alla cena di facoltà, e non me lo scorderò mai, noi nella quinta strada, con quella notte buia e gelata, si camminava in centro. E ti ricordi che all'improvviso decidemmo di non andare alla cena e dicemmo al diavolo, e noi, era una notte così bella, siamo entrati nel Central Park e ricordi, era così innevato quella notte, in cielo si contavano le stelle, uh-huh. Tu eri talmente bella con quel vestito nero, davvero. La memoria, ne parliamo oggi insieme al professore Iannoccari, 800 24 0024, se volete chiamare per raccontarci che cosa dimenticate più spesso e invece quale strategia magari utilizzate per ricordare. Adesso si apre un periodo per molti di voi di vacanza e magari noi potremo proprio utilizzare il tempo libero per allenare un po' la nostra memoria, ma per anche fare un pochino di spazio, per staccare la spina. Noi tutti lo diciamo, ho bisogno di riposarmi, ho bisogno di svuotare la testa, non sempre, soprattutto quando siamo intossicati di informazioni, di tensioni, di preoccupazioni, riusciamo a farle. La testa continua ad andare là alle preoccupazioni, alle cose da ricordare. La puntata di oggi vuole essere un'occasione per fare un pochino di spazio e cercare di così imparare a ricordare le cose belle senza angosciarci troppo di quelle che noi dimentichiamo. Italo ci ha mandato il colore rosso, la definizione, le parole che avevamo associato con la strategia, e penso che Italo, che ci ha scritto al 349-238-6666, abbia fatto un buon lavoro, ma sarà il professor Iannocchi a deciderlo. Rosso, ciliegia, 25, tramonto. Ragionamento: mangiare ciliegia il 25 al tramonto. Quindi ci ha raccontato anche come ha fatto a memorizzare le due parole e il numero. Io, professor Iannocchi a Italo, direi che ha fatto un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro, sì. E a Italo noi faremo arrivare a casa la Sugar Box, un cofanetto per provare le novità della Cosmesi. Grazie Italo e complimenti. Aspetto il verde che abbiamo già lanciato, ma intanto vado a Rimini perché c'è Loretta che ci aspetta. Buongiorno Loretta. Buongiorno a voi. Eccoci. Allora, io volevo porre al professore un quesito, come può aiutarmi in questo senso. Io non ho la memoria, credo che si possa chiamare visiva, nel senso incontro per strada delle persone che mi salutano chiamandomi per nome e magari mi fermo a parlare e mi chiedono delle cose che conoscono, quindi vuol dire che sono entrate in relazione, cioè magari come stanno i figli, come va il lavoro, eccetera. Io rimango sul generico, poi appena ci salutiamo incomincio a pensare, ma dove l'ho visto? Ma chi sarà? Loretta. Esatto. Delle volte riesco poi a ricordare e alcune volte sono, quando poi le ricordo anche a distanza di giorni, persone con le quali magari ho condiviso anche, non so, un corso di mesi. Ecco, questo mi preoccupa un po'. Sono sempre stata così. Cioè anche da ragazza. Anche da giovane. Ora ho 53 anni, quindi anche da ragazza ero così, avevo questa memoria labile per le persone. Per i volti, esatto. Sì, è la memoria per i volti è una di quelle componenti della memoria di cui parlavamo all'inizio. Diciamo che nella forma più estrema, non ricordare i volti delle persone, si chiama prosopagnosia, che è praticamente un nome difficilissimo, sono persone che sono affette e nelle forme più gravi addirittura non riconoscono la moglie, per cui quando quindi però in non casa, è il caso di Loretta, no, assolutamente. Per sdrammatizzare, mentre possiamo adottare una strategia quando incontriamo qualcuno. Allora, Leonardo da Vinci nel trattato sulla pittura suggeriva ai giovani pittori di dividere il volto del modello in tre parti: la parte superiore, che comprende la fronte e gli occhi, la parte centrale, che comprende il naso e le guance, e la parte inferiore, che comprende la bocca, il mento e le mascelle. Allora, in questo modo noi riusciamo ad individuare in un volto le caratteristiche peculiari di quella persona, visto che nessuno di noi è identico ad un altro. Ciascuno di noi ha qualche caratteristica. È una questione di allenamento, ma credo che iniziando con le persone che si incontrano più spesso si possa avere un buon risultato. Quindi quando incontra una persona, oppure se vuole può fare gli allenamenti anche su delle fotografie di riviste, giornali o in TV, ecco, concentrarsi sul particolare di quel volto, va bene, memorizzandolo. Magari se si conosce il nome si memorizza la particolarità associata a quel nome. La volta successiva anche solo il ricordo di quel dettaglio può aiutarci a ricordare chi è la persona. Sì. Pina da Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il verde? Abbiamo detto verde, sì. Sì. Pina, allora, mi raccomando, vai. Prato, 18 aprile. Perfetto. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è Prato, perché l'erba è verde. Brava. 18 aprile perché è una giornata primaverile. 18 aprile poi tutto è verde, tutto fiorisce. Benissimo. Benissimo. Era il professor Iannocchi? Assolutamente corretto. Una sugar box possiamo mandarla anche a Pina, che così proverà con questo cofanetto le novità della Cosmesi. Pina, grazie, brava, complimenti. Ma molti di voi, molti genitori, anch'io l'ho fatto, adesso che è tempo delle vacanze, stanno già tormentando i ragazzi dicendo: se devi fare i compiti, se no quando torni a scuola non ti ricorderai più nulla. Lo farà anche lei, professor Iannocchi, con i suoi figli. Allora ci sono ragazzi che cercano, no, di distribuirli un po' nel corso dell'estate, altri che poi lo faranno a fine agosto facendo gli straordinari. Allora, per i genitori che sono preoccupati e che stanno cercando di convincere i figli figli a fare i compiti minacciandoli che poi al ritorno a scuola non si ricorderanno più nulla, abbiamo i consigli di un prof vero, Matteo De Benedittis. Ciao Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutti, salve. Gli do del tu perché è un professore, è il professore Rep, insegna italiano alle scuole secondarie superiori, è qua pronto rapidissimamente per dare dei consigli ai genitori. Allora, intanto la prima formula da segnarsi credo che sia questa: numero di pagine o numero di esercizi diviso numero dei giorni. Credo che questo, oltre a favorire l'organizzazione, potrebbe essere anche per me e per i miei studenti avuto un effetto calmante, tranquillizzante. Non viene l'ansia della mole enorme di compiti, della montagna da scalare di compiti e di esercizi. Quindi dividendo il numero delle pagine degli esercizi per il numero dei giorni ancora disponibili, togliendo le domeniche, certo, togliendo le vacanze, i compleanni, eccetera, i compleanni e tutto quanto, ognuno si organizza, sa, se oggi devo fare 10 esercizi li posso anche non fare, ma so che il giorno dopo ne devo fare 20, quindi so di quanto sono in ritardo. Scusi, insomma. Scusa Matteo, devo dire, sì, un colore arancione. Ok, continua. Bene, e quindi appunto, oppure anche se un giorno ho particolarmente voglia di lavorare, so di quanto sono avanti e il giorno dopo so se mi posso rilassare o quindi meno. Quindi dividere poco per volta, poco tempo, esatto, ma sì, costantemente. Sì, anche perché fare la buffata finale in realtà non credo, adesso bisognerà sentire il professore, ma se aiuta la memoria fare la buffata finale, a me personalmente ha sempre aiutato molto di più invece la diluizione giorno per giorno, in modo che per tanti giorni vengono ripetute un po' le stesse cose, questo mi aiutava a memorizzarle meglio piuttosto, certo, che appunto la scalata finale. E poi cosa dire? I compiti delle vacanze si dividono su due livelli, la comprensione e la memorizzazione. Alcune materie sono più da capire e altre sono più da memorizzare. Matematica, ad esempio, inglese sono più, diciamo così, da capire, storia invece è proprio da memorizzare, o anche le versioni di latino sono più da capire. Quindi qual è il meccanismo. Con calma, sedimentiamo passetto dopo passetto, facciamo anche i compiti delle vacanze. Il professor Iannoccheri conferma? Assolutamente sì. No alle abbuffate, no, ma morsetto dopo morsetto. L'arancione non è arrivato, io vi saluto e vi do appuntamento a domani. Grazie professor Iannoccheri. Grazie a lei.